certo, che è cosa qua. È mai giusto. Festa dei cazzo. Sì, modico sempre, modico sempre, modico sempre, modico sempre, modico sempre, modico sempre, modico sempre, modico sempre, modico sempre, modico sempre, modico sempre, modico sempre, modico sempre, modico sempre, modico sempre, modico sempre, modico sempre, modico sempre, modico sempre, modico sempre, modico sempre, modico sempre, modico sempre, Garbatella, Garbatella, Garbatella, Garbatella, Garbatella, Garbatella, Garbatella, Garbatella, Garbatella, Garbatella, Garbatella, Garbatella, Garbatella, Garbatella, Garbatella, Garbatella, Garbatella, Garbatella, Garbatella. Ciao a tutti! Ciao a tutti! Ciao a tutti! Io sono Remo Remotti da Roma. Eccoci qua, cari amici, fratelli e questa è una radio, è una radio, è una radio ad Ostia. Siamo tutti pazzi e non sentiamo cazzi. Tutti pazzi e non sentiamo cazzi. Che ne pensate? Buongiorno a tutti, cari amici. Io sono Remo Remotti e vi parlo da un'altra Radio Roma. Già se ne stanno 12, questa è la 13esima. Però questa è Ostia e vale doppio. Voi siete sempre i meglio. Pochi dovete diventare molti ascoltatori di Remo Remotti di un'altra Radio Roma. E buonanotte al cazzo. Grazie, dai, dai, dai, dai, dai, dai. Dai, dai, dai, dai, dai, ridai, l'astronave di un'altra Radio Roma atterra di nuovo sul suolo terrestre. Mister Cocotte alla console e voi dietro le cuffiette. Abbiamo iniziato subito alla grande con un nuovo jingle per voi, radiospettatori, di un'altra Radio Roma. Siamo andati a casa di Remo Remotti e gli abbiamo estrapolato un'intervista e anche queste parole che lui ci ha lasciato per fare un jingle per Nartra Radio Roma. Un grazie a Remo Remotti ed un grazie anche a Daniela, lei sa chi è, noi sappiamo chi è, voi sapete, no, non lo sapete. Perciò un ringraziamento a Daniela che ci ha suggerito questa playlist di musica dal mondo suonata con strumenti tradizionali e siamo partiti subito, dopo il jingle, con un pezzo di un artista spagnolo, lui si chiama Roger Subirana, con la traccia Rituals at Dusk. È stata composta appositamente per il flauto tradizionale dei nativi americani, che appunto Subirana, il signor Subirana, ha ricevuto il regalo da una coppia di fans del Missouri. Perciò lui era Roger Subirana, la traccia era Rituals at Dusk, siamo partiti con Nartra di Roma e con Mr. Cocosta alla composta per voi, e con Nartra Radio Roma. E soprattutto ricordatevi, noi mandiamo solo musica sotto licenza Creative Commons, Nartra Radio Roma. Thank you. ce le andiamo ad aggustare, ad aggustare, ad aggustare, ad aggustare qui su un'altra radio Roma, su un'altra radio Roma, su un'altra radio Roma, su un'altra radio Roma. E come dice un'altra radio Roma e come dice Mister Gasperino, il nostro professore, ci siamo aggustati appena appena pochi secondi fa un altro pezzo direttamente dal mondo. Lui era Zino dal Giappone. Questo era un gruppo giapponese guidato da uno spagnolo che si chiama Carlos Guerra. La traccia era Moonlight Gate e questo è un mix interessante di strumenti tradizionali orientali e influenze latine. Un pezzo veramente da paura. A me piace moltissimo, spero che a voi piaccia e che ve lo state ascoltando seduti, forse, su un divano di una stanza con una luce poco accesa. Noi invece siamo accesissimi e un'altra Radio Roma vi trasporta direttamente nel cosmo. Ora per voi un'altra traccia dal mondo. Buon viaggio, buon viaggio. Buon, da Mister Coco, Mister Coco, Mister Coco, Mister Coco, Mister Coco, Mister Coco, Mister Coco, Mister Coco, Mister Coco, Mister Coco, Mister Coco, Mister Coco, Mister Coco, Mister Coco, Mister Coco, Mister Coco, Mister Coco, Mister Coco, solo aquí viaja en la sagrada de pluma dorada. Regresa aquí, amigo, me iba soltando. Todo Latinoamérica está saltando. Todo Latinoamérica está saltando. Todo Latinoamérica está saltando. Todo Latinoamérica está saltando. Saltando, saltando, saltando. Salta latino. Salta latino. Salta, salta. Daje, daje, da, daje, daje. Daje, daje, da, da, da, daje. Per voi dal Cile a Via Ayala, con questo latino reg dal titolo Salto Latino, Salto Latino. Per voi, Mr. Cocot, Nartra Radio Roma, il mondo in una sola frequenza, Nartra Radio Roma. Si riparte, nuovo brano, Paco Santiago, lui è spagnolo e questa è rumba sudamericana. Sudamericana, rumba a Nartra Roma. Mr. Cocotte se la canta, se la balla e se la suona. Lui era Paco Santiago dalla Spagna e questa è la rumba sudamericana. Continuiamo ad andare in giro per il mondo senza muoverci, ma soltanto ascoltando le tracce Creative Commons che Nartra Radio Roma ogni 3-4 giorni vi fa ascoltare qui sul suo blog. Dalla Spagna all'Argentina. Qui all'Argentina incontriamo un artista molto eclettico, lui si chiama Gustavo Cocenzi. Spazia dal jazz all'orchestrale con puntate nel rock e nella techno, ma sempre con un approccio soft e melodico. queste sono le notizie su di lui che possiamo leggere su Cemento. La traccia in questione si chiama Milak Navira ed è la trasposizione musica di un mito inca sulla nascita di un fiume e una cascata. La perpetua storia dell'amore e del mito qui a Radio Roma, solo per voi, Mr. Cocotte, Nartra, Roma! Cancelli, che arriva la cavalleria Tenartra Radio Roma. Ragazzi, siamo sempre qui sulle frequenze Tenartra Radio Roma. Vi ricordo il nostro sito www.nartraradioroma.blogspot.com. Vi ricordo anche www.nartraradioromarecensioni.blogspot.com. Chiunque avesse la possibilità di mandarci qualche podcast, qualche CD di loro manifattura, noi siamo pronti a ricevere ogni cosa, basta che non sia sotto licenza CAE, Creative Commons, qui a Nartra Radio Roma. Continuiamo, prossimo artista, proviene dalla Spagna, dalla Asturia, il suo album Leandes, e lui è Xera. La traccia in questione è Valsiao de San Andrés. Le sonorità di questa traccia sono essenzialmente fatte con strumenti tradizionali delle Asturie, di ispirazione celtica unita a sonorità elettroniche. Un mix affascinante qui a Radio Roma. Sera dalla Spagna, Valsiao de San Andrés. Stay tuned, Nartra Radio Roma. Nartra Radio Roma, la radio che non è di Pelastica. E come consono l'astronave Denartra Radio Roma, il viaggio è dentro la radio. Noi Denartra Radio Roma vi stiamo proponendo in questo podcast, insieme a Mr. Cocot, un viaggio intorno alle musiche tradizionali di alcuni paesi. Dopo Exera dalla Spagna con il suo pezzo Valsiao de San André, che appunto ritornava sulle sonorità e sulle strumentazioni tradizionali delle Asturie, con una grande ispirazione celtica, ho voluto continuare a farvi ascoltare alcune tracce che ritraevano suoni e tradizioni celtiche. Ci siamo andati ad ascoltare di seguito, dopo Xera, un gruppo francese. Loro si chiamano Aislinn e la loro traccia era Morlock Shore. Questo è un gruppo che propone una musica celtica pura con strumenti tradizionali, in cui possiamo anche ascoltare l'arpa celtica rigorosamente live. Il loro album mi sembra che sia uscito nel 2009 ed è stato un successo immediato. La cantante che abbiamo sentito appunto nel pezzo Morlock Shore si chiama Stéphanie. Dopodiché dalla Francia siamo passati direttamente un po' più vicino, qui a Roma, in Italia, con un album chiamato Il Viandante di Pasqualino Ubaldini, la traccia Viaggio Prima. E il viaggio appunto è il tema di tutto l'album e di tutto il podcast che vi sto presentando. In questo album il viaggio è alla ricerca della musica tradizionale del nostro sud, in particolare la taranta. Anche Pasqualino suona tutto ciò che ha corde, in particolare gli strumenti mediterranei, e suona in tour insieme a Progetto Migala. Il pezzo che vi ho fatto ascoltare ha anche un video che dovete andare a cercare su YouTube. Ve lo ricordo, Pasqualino Ubaldini, lui è de Roma, noi siamo de Roma. E qua state su un'altra Radio Roma. Ricordo, e ve lo ridico, alzate ste casse che ve sto a mandare sto podcast. Buon viaggio. E sotto queste dolci melodie di Magui 80, lei è spagnola e la traccia si chiama SP Pictures, possiamo continuare a girare il mondo adesso andando direttamente negli USA. Loro sono Brown Beard at the Nave e la loro traccia è Devil Dancing. Loro fanno parte di Art Somerville, una organizzazione che ha sede nella cittadina di Somerville, appunto, nel Massachusetts, USA, che riunisce tutti gli artisti locali e organizza eventi musicali e culturali alla Nave Gallery. direttamente da Massachusetts, USA, un folk country americano. Qui per voi all'altra, E va bene, ne ho fatti due e in tutte e due c'era mio padre, che strano. Ho 20 anni di più di quanti ne aveva lui quando è morto, quindi in un certo senso è lui il più giovane. Comunque sì, il primo non me lo ricordo tanto bene. Ma lo incontravo da qualche parte in città, mi regalava dei soldi e io li perdevo. Il secondo era come se fossimo tornati tutti e due indietro nel tempo. Io ero a cavallo e attraversavo le montagne di notte. Attraversavo un passo in mezzo alle montagne. Faceva freddo e a terra c'era la neve. Lui mi superava col suo cavallo e andava avanti. Continuava a cavalcare senza dire una parola. Lui era avvolto in una coperta e teneva la testa bassa. Mi ha sorpassato e io mi sono accorto che tenevo una fiaccola ricavata da un corno, come usava ai vecchi tempi, e il corno, alla luce della fiamma che c'era dentro, era del colore della luna. E nel sogno sapevo che stava andando avanti per accendere un fuoco da qualche parte in mezzo a tutto quel buio e a quel freddo. Perché quando ci sarei arrivato l'avrei trovato lì. Poi mi sono svegliato. Still hear that devil's voice sometimes. growing fainter with every man. It's mixing in with the sounds of existence. It's all mixed to the light. Basta, basta, basta applausi, grazie. Nartra Radio Roma torna e vi porta in giro ancora per il mondo. Per voi dal Brasile, da São Paulo, Dorme Marina, del duo chitarrista Haroldo Torresiglia e Paolo Arullo. Per voi, Nartra Radio Roma. E rilassate, rilassate. Que la perdió. Rueda que rueda, lo mismo que una moneda. llorar que llora. Yo digo que es un tesoro de plata y oro tu corazón. Yo digo que es un tesoro de plata y oro tu corazón. Un broche y una esterlina fueron la ruina de una pasión. Un bardo con 10 monedas forró de seda tu corazón. Sin compasión, yo digo que una mulata por oro y plata se enamoró. Ay, late que late el cuero del parche bate con manos de chocolate. El negro que la perdió, rueda que rueda, camino de una moneda con ropa de tulicera. La negra se la mintió con todos los cueros en la forrada. Vamos a sentar. Yo digo que es un tesoro de plata y oro tu corazón. Yo digo que es un tesoro de plata y oro tu corazón. E Mr. Cocotte, un'altra Radio Roma e tutta la radio, compresa Mr. Brontolo, Mr. Gasperino, Mr. Campo, vi augura un buon ascolto con i podcast dell'altra Radio Roma. E vi dà appuntamento al prossimo podcast, alla prossima diretta, e mi raccomando, venite su www.nartraradioroma.blogspot.com e se volete potete darci i vostri podcast inserendo tracce non SIAE, esclusivamente Creative Commons licenza, e potete spedirle all'indirizzo nartraradio@live.it. Io vi ho lasciato con l'ultimo brano che avete appena ascoltato di Flores Negras dall'Argentina. Loro sono un quartetto corale femminile di Buenos Aires e cantano il tango. La traccia era Oro e Plata. Per voi, solo, su un'altra radio, Roma.